andiamo dall'oculista, poi anche loro fanno quel che possono, magari riesce alla prima operazione, altri occhi li devono pasticciare chissà quante volte. No, Stellino, mio amico, quando li facciamo di nuovo, insomma, li facciamo insieme nella messa e all'ospedale, la seconda volta riaggiustano un occhio, aiutare i ciechi a vedere, ma aiutare i ciechi a vedere, c'è una vista e ci sono degli occhi che non sono soltanto quelli fisici. Per vedere fisicamente affidiamoci pure a dei bravi oculisti, ce ne sono, ecco, ma per altri gli occhi dello spirito forse possiamo diventare oculisti tutti quanti. E allora Gesù, soprattutto su questa linea, ecco, non prendete i miracoli come se fossero cose esterne, cose esteriori. Gesù ha risuscitato i morti, ma dentro, nello spirito. E poi per farvi capire questo, narrano la risurrezione materiale che forse non è mai avvenuta in 3 o 4 persone. Ecco perché forse deve essere capita in senso più profondo per trasmettere questo messaggio, così ciechi, così agli altri. Poi si dà a caso, qualcosa improvvisamente possa succedere in virtù di tante forze psicofisiche che non sono conosciute ancora. Pensate a certi miracoli oggi che avvengono. E Gesù ha detto, non ne farete più grandi di me. Miracoli in questo senso, soprattutto perché miracolo significa qualcosa di meraviglioso, e non è meraviglioso se noi riusciamo a far vedere con occhi più profondi certe cose a un amico, a una persona che è nell'oscurità. Non li chiamiamo miracoli, perché ci siamo messi in testa che miracolo significa, ecco, cambiare 600 litri d'acqua in vino per degli avvinazzati, così siete belli contenti. Non è quello il miracolo del campo. C'è che vedete. Luca 13:1-5 riferisce, dobbiamo finire, ecco, riferisce del dibattito di Gesù con alcuni non meglio identificati circa due fattaggi: una strage di Galilei al Tempio ordinata da Pilato e la morte di 18 persone sotto le torri gemelle, ecco, sotto il crollo della torre di Siloe, che è una torre che custodiva la fontana di Siloe in basso a sinistra di Gerusalemme. Ecco, credete, dice Gesù, che costoro fossero più colpevoli degli altri e che Dio li abbia castigati? Dio, di Gesù, non provoca malattie, non provoca disgrazie, né per rappresaglia o vendetta e neppure per mettere alla prova. Lo fareste voi padre e voi madre nei confronti dei vostri figli. Luca 11:13, quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste. È vero che nelle beatitudini, che abbiamo già detto altre volte per il cristiano sostituiscono i 10 comandamenti, se siete cristiani non preoccupatevi più dei 10 comandamenti, sono superati dalle beatitudini. 10 comandamenti tutt'al più vi fanno diventare buoni ebrei, ma sono le beatitudini che vi fanno diventare ed essere cristiani. Avete udito che fu detto, e cita i 10 comandamenti, ma io vi dico. Allora, volete accontentarvi di essere ebrei? Benissimo. Dio vi salverà come ebrei. Ma se volete essere salvati come cristiani, bisogna passare alle beatitudini. E Gesù ne ha inserito una sulla sofferenza. Sulla sofferenza. Beati coloro che piangono. Però cambia tutto, è tutto sbagliato quello che abbiamo detto, ma non fermatevi, Non fermatevi, date avanti, beati coloro che piangono perché saranno consolati. La soluzione è in quel saranno consolati, non nel pianto. La beatitudine non è nelle lacrime, non è nella sofferenza, non è nel dolore, ma nel fatto che Dio consola coloro che piangono. E come li consola? Vedremo, che lo sappiamo benissimo, ma intanto considerate quanto era rivoluzionario dire questo a gente che a quell'epoca considerava come riprovati, allontanati, castigati da Dio, coloro che erano nella sofferenza, nella disgrazia, come abbiamo visto per il cieco. Secondo Gesù, non soltanto non sono riprovati da Dio, non soltanto non sono castigati da Dio, ma Dio è loro vicino, proprio perché piangono e soffrono. E saranno consolati da chi? Da Dio? No, dai figli di Dio, dai fratelli, che perché Dio è amore, cercheranno di essere anche loro amore e aiuto verso i fratelli che non vedono. Applaudiamo questo primo punto della nostra riflessione, poi facciamo un po' di pausa, considerando la condotta di Gesù verso coloro che soffrono. Apprendiamo, impariamo che le guarigioni operate da Gesù sono un segno del regno che arriva con Lui e che è Lui stesso. Il regno di Dio è arrivato. I segni sono questa condotta di Gesù verso i sofferenti. Gesù non ha guarito tutti, ecco la tua obiezione, non ha guarito tutti i malati del suo paese. Se avesse avuto questo potere, per Paco, poteva dire, anche organizzarsi meglio, poteva dire al lunedì guarisco tutti i ciechi, si presenta. Al martedì guarisco tutti gli zoppi, si presenta. Al mercoledì tutti coloro che hanno mal di fegato. E avanti. Avevi immaginato una commedia del genere che poteva fare Gesù. Gesù non ha guarito tutti i malati del suo paese. Non ci ha presentato un Dio pronto soccorso. Dovremmo smetterla di pensare a Dio, al pronto soccorso che è lì a nostra disposizione. Vostro figlio di 50 o 60 anni e venisse ancora da sua madre e dire guarda che ho un piccolo foruncolo da curare, come devo fare, mi aiuti, c'è da ridere, c'è giusto, non va a disturbare il padre e la madre per quello. Non ci ha presentato un Dio pronto soccorso o guaritore, non il Dio guaritore alla maniera di Padre Pio o di altri padri meno pii. Ci ha però lasciato intendere, dimostrato quasi chiaramente, che Dio non provoca alcuna sofferenza per quanto sta da Lui. Bisogna trovare un'altra motivazione per la sofferenza, non Dio. Non si compiace del dolore umano. Non lo usa come castigo, non lo usa come prova d'amore. Adesso ti faccio soffrire un po' così, se sei fedele, segno che mi vuoi bene. Dio non usa questo sistema. Questo sistema non è un sistema da padre, non è un sistema da amico questo, è un sistema da villano. No. Il Dio di Gesù è un Dio assolutamente buono. È un Dio soltanto buono. È il tema che Padre Maggi svolgerà l'anno 21 aprile, quando verrà qui da noi a Cuneo. Un Dio dei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Luca, un Dio assolutamente buono per l'uomo, non fa del male a nessuno. Dio, il Dio dei Vangeli, il Dio di Gesù. Un grande teologo contemporaneo, mi fare skill effects, si esprime così: Dio, il promotore di ogni bene, è contro il male e contro la sofferenza. Attendiamoci di questa prima portatante, e dovremo ora vedere come Gesù si è comportato nella sua sofferenza. Questo nel confronto delle sofferenze altrui. E a proposito della sua sofferenza, cambia un po', perché finché si tratta di aiutare gli altri, aiutiamo già malamente. Le nostre sofferenze e il comportamento nostro nei confronti di chi soffre. Vedremo dopo l'intervallo come Gesù si è comportato nella sua sofferenza. Ecco, salutiamoci un momento. Allora, affrontiamo il tema. Abbiamo detto di Gesù faccia a faccia con la sua sofferenza, non con la sofferenza degli altri che abbiamo visto prima. Gesù, abbiamo detto, probabilmente non ha vissuto personalmente la sofferenza della malattia, intendendo malattia che è fisica, ma attraverso la sua predicazione ha incontrato ostilità crescente, sempre più violenta, che lo ha portato alla morte più atroce, più obbrobriosa mai esistita, la morte in croce, la crocifissa. La croce è uno dei più grossi strumenti tortura che gli uomini abbiano potuto inventare. Responsabile di questa morte, chi sarà? Il Padre Eterno che ha voluto così, non scherziamo. O non saranno piuttosto le autorità religiose del suo popolo e quelle civili di Roma, civili militari di Roma, che allora occupava la Palestina. Il messaggio e i comportamenti di Gesù sono apparsi alle autorità come devianti e pericolosi e hanno fatto scattare molto presto la decisione di sopprimere Gesù. Negli ultimi decenni dobbiamo ringraziare gli studiosi dei Vangeli e della Bibbia in genere, perché ci hanno dimostrato molto chiaramente come sono andate le cose e le ricostruiscono in questo modo qui. Gesù si è attribuito una conoscenza diretta della volontà di Dio. Ha cominciato a dire: è Padre, Padre, Padre buono, Padre dice per mezzo mio. Conoscenza diretta della volontà di Dio. Provate un po' oggi nella Chiesa a rivendicare una cosa del genere, che cosa succede? Si è attribuito una conoscenza diretta della volontà di Dio, senza bisogno di intermediari. Fate fuori tutti gli intermediari che si sono messi tra mezzo, tra noi e Dio. Vedete cosa è qui? Senza alcun ricorso alla tradizione, sempre la tradizione. Mi fa fare cose che io giudico ingiusto, non da qua. Senza ricorso alla tradizione. Si è collocato al di sopra di Mosè. Avete udito che fu detto da chi? Da Mosè, ma io, superiore a Mosè. Con disinvoltura, certe cose le abbiamo viste più dettagliatamente in certe domeniche. precedenti con disinvoltura trasgredito la legge di Mosè e le prescrizioni religiose. Sabato, per esempio, vi ricordate? Cibi puri e impuri, lavande e purificazioni rituali, annuncia la distruzione del Tempio, annuncia la distruzione del Tempio, cioè vuol dire la fine del culto sacrificale di Israele. Basta, non ci sarà più. Ma andato a dire quello, come si annunciasse dal Papa, che è San Pietro e tutto il resto, non finisce, il fretto finisce per il mezzo. Non sacrifici. Misericordia voglio e non sacrifici. Allora i sacrifici li facevano al Tempio. Anzi, il sacrificio è l'espressione massima del culto in tutte le religioni. Annuncia come presenza, annuncia Gesù una presenza di Dio che non è più legata ad alcun luogo sacro particolare. Voi continuate a chiamare la Chiesa casa di Dio, Gesù vi dice: ma che casa di Dio è quella? Casa di Dio è tutto, è la creazione intera. È giunta l'ora, 20 secoli dopo non è ancora giunta, ma è giunta l'ora che non a Gerusalemme, non sul Garizzi, non in qualche altro tempio famoso, adorerete Dio. Dio vuole essere adorato in spirito e verità, e già ora adesso, non fra 20 secoli, già ora adesso, diceva Gesù. Non è legata la presenza di Dio ad alcun gruppo religioso privilegiato. Qualche gruppo religioso che ha più presenza di Dio di un altro, no? Una cosa da infame da non dire, è infame da non dire questo, perché non è possibile che Dio abbia così tante preferenze che li facciamo fare. Compromette Gesù la propria reputazione con persone moralmente riprovevoli, pubblici peccatori come i collettori di imposte di Zaccheo, di Matteo, eccetera, e le prostitute, alla quale non dice nemmeno non peccare più come ha detto la Torah, dice vai in pace, continua a fare la prostituta, perché se non muori di fame, perché hanno organizzato una società, perché ti hanno presa 5 anni e 8 anni ti hanno immessa sul mercato. Tu non hai più famiglia, nessuno più ti accoglie in famiglia, sposarti nessuno ti sposa, puoi morire di fame. E allora se ti salvi facendo la prostituta, vai in pace, vai in pace. L'adultera no, non peccare più, ma la prostituta non va dentro. Scandaloso tutto questo, non vi pare. Gesù compromesso, ma i peccatori, non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. Si fa più festa in cielo per uno che torna che non per 99, secondo la mentalità orientale, se a 10 togliete uno, l'uno davanti rimane 0, se a 100 togliete uno rimangono 2 zeri, se a 1000 togliete uno rimangono 3 zeri, allora quell'uno è importante. Colmo dello scandalo è a Dio stesso che Gesù riferisce la sua condotta. Ciò che il padre fa, anche il figlio lo opera. Allora dice, come opero io, è come opera Dio. Chi si sente di dire questo, di permettere che altri lo dicano? Colui che vede me, vede il padre. Provate un po' a dire questa frase oggi. Chi vede me, vede il padre. Non cercare il padre chissà dove. Se guardi me, ed è il Padre. Nessuno accetta oggi questo. Offre di Dio un'immagine di una originalità sorprendente, completamente diversa da quella della religione dell'Antico Testamento e di tutte le religioni. Un Dio che al primo punto mette non il bene di se stesso, ma mette il bene dell'uomo, tanto è che si incarna Dio, fa come Dio, diventa uomo. Al primo punto mette il bene dell'uomo, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ma smettetelo di adorare Dio, sempre lì, inginocchiati, fare inchini a Dio. Fate del bene all'uomo, questa è l'adorazione a Dio. Poi sconvolgente tutto questo, scandaloso. Al primo punto il bene dell'uomo, per nulla preoccupato di far osservare le leggi che non servono più all'uomo. Cosa volete continuare ad osservare leggi che non servono all'uomo? Verificate se le leggi servono all'uomo, se no smettetela di essere obbedienti alle leggi. Un Dio che è estraneo a un qualsiasi giuridismo o formalismo del culto, il Dio di Gesù. Un Dio che non condanna nessuno, terminavamo prima dicendo quel che abbiamo detto, che non allontana i peccatori ma li accoglie. Noi continuiamo a presentare un Dio che allontana i peccatori, perché per esempio per la messa, la comunione, diciamo non puoi andare a fare la comunione, sei in peccato, prima devi andare a trovare un altro Cristo che ti perdoni, prima di incontrare quel Cristo che è sempre quello stesso che ti perdona. Allora la confessione prima della comunione, se non puoi fare la comunione. Ma al contrario di quello che ha detto Gesù, la comunione, l'incontro con Gesù era per i peccatori, non per quelli che erano già sani, saluti. E l'ultima cena è stata una cenaccia, erano tutti peccatori, che discutevano fra di loro chi era il più importante mentre Gesù parlava della sua morte. E poi c'era Giuda, e poi c'era Pietro che avrebbe rinnegato più presto degli altri. Una cenaccia, non un'ultima cena alla Leonardo da Vinci. Dio è il Dio di un amore continuamente donato a tutti, mai represso, in una maniera totalmente gratuita. Quindi, mai Dio è onnipotente o non è onnipotente. Dio non è onnipotente nel senso che intendiamo noi. Dovremmo fare un corso come quello, riprendere quello di Magia, intitolato Dio impotente, non potente, Dio impotente. È potente soltanto in una cosa ed è onnipotente in quella cosa, nell'amore, perché se Dio è amore, è onnipotente nell'amore, allora vi può perdonare per quanti peccati vi facciate. Nel resto onnipotente è la natura di quello che è l'amore. Bella questa idea, è abbastanza convincente, seppur misteriosa, perché noi intendiamo l'onnipotenza tutta intorno a quanto. Un Dio del genere, voi capite che ha urtato la gerarchia sacerdotale del tempo, il Papa, i Vescovi, i sottovescovi dell'antico, la gerarchia ecclesiastica dell'Antico Testamento è stata profondamente turbata e urtata perché era custode della dottrina tradizionale e ha motivato la decisione di farla finita con Gesù. Ecco di dove deriva la maledetta e benedetta croce, deriva di lì. La vocazione e conversione meglio di Paolo, voi sapete, l'avevamo forse già ricordato, è consistita in questo. Paolo ha capito che il maledetto della croce, maledetto perché era stato condannato secondo la legge di Mosè, aveva bestemmiato, aveva fatto tutto quel casino, direbbero i vostri figli e nipoti, tutto quel casino aveva combinato allora. Maledetto secondo la legge. Beh, Paolo intuisce dopo aver acconsentito per un certo periodo, ecco, la folgorazione, capisce che ha sbagliato la legge, allora il maledetto è il benedetto. Il benedetto secondo l'amore che egli ci ha insegnato e non il maledetto perché la legge l'aveva. Gesù ha visto profilarsi davanti la sofferenza e la morte. La vista, ma mica mica, ci è andato al buio, ha vissuto tutto. Se leggete Marco al capitolo 3, dice già che farisei e rabbiani eccetera si mettono d'accordo per ammazzare Gesù. No? Ammazza Gesù, figura se non se ne è accorto molto per te, intelligente come penso forse, ha intuito subito che si andava su quella linea lì. Quindi ha vissuto 2 anni e mezzo dell'agonia della morte, dell'agonia di essere preso e infilzato. Sofferenza questa. Sono gli annunci del Vangelo della sua passione e morte, vi ricordate? Parlava della sua morte, dovrà avvenire, eccetera, eccetera. Ma il terzo giorno risorgerà, non è il terzo giorno della risurrezione del Vangelo, è cronologico, eh? Il terzo giorno era l'espressione con cui i farisei esprimevano la risurrezione alla fine dei tempi. Dice Gesù, se anche dovessi morire, io sono certo che alla fine dei tempi risorgerò e mi prenderà con sé. Un shock della risurrezione evangelica è quella della fede dei discepoli che hanno intuito che non poteva essere rimandato per Gesù così santo, che era morto perdonando i peccatori, poteva essere rimandato alla fine dei tempi, chissà quando. Subito è risorto dai morti, cioè Dio se l'è preso con sé, lasciate il cadavere, tutte quelle questioni lì, Dio se l'è preso con sé, questa è la vera risurrezione. Eppure Gesù non si è tirato indietro, avrebbe smentito se stesso se si fosse tirato indietro, avrebbe smentito tutta la predicazione e l'amicizia con i discepoli, con i seguaci. Avrebbe smentito la rivelazione di Dio che aveva fatto dicendo che Dio era amore, che avrebbe amato i suoi. Capite quanto è sapiente quell'introduzione che Giovanni fa al racconto della passione, Giovanni 13:1, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Per questo è morto, non perché il Padre l'abbia voluto morto, per far pagare a lui i nostri. Ancora nell'orto degli ulivi avrebbe potuto fuggire. 5 minuti era nel deserto di Giuda, ancora adesso nella basilica del Getsemane, che passa, siete subito di là, nel deserto di Giuda è immediato, siete su una collina del Monte degli Ulivi, che poi passa, subito di là c'è il deserto. Davide si era salvato. Gesù poteva dire, fate lì, non avete pregato prima con me, adesso fate finta almeno di pregare che ci sia anch'io in cerchio, io me la svigno, e quando arrivano ad arrestare, no, dite lì che sono scappato, tutto finito. No. Ha affrontato la situazione. Interpretare le parole di Gesù quando parla della sua passione e morte. Il figlio dell'uomo dovrà molto patire e essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scritti. Oppure, quando ritorno in quei termini, bisogno, dando quasi l'idea che Gesù agisse come un robot per cose già predeterminate da prima, dalla volontà di Dio. O come interpretare la parola del Getsemani, Abba, Padre, tutto è possibile, allontana da me questa coppa, ma non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Allora, la morte, la coppa sarebbe ciò che vuoi tu. E facciamo la domanda chiara a questo punto, Dio avrà potuto volere la sofferenza orribile della croce e la morte di un figlio unico? Abbiamo visto che Gesù ci ha assicurato che Dio non vuole la sofferenza per nessuno. Gesù stesso, a nome di Dio, ci ha detto: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi perseguitano. Luca 5:27. Gesù non ha proposto di imitare la condotta stessa del padre, che fa sorgere, dice Matteo ma anche Luca, fa sorgere il sole sui cattivi come sui buoni, e che è buono verso gli ingrati e i malvagi, totalmente buono, assolutamente buono, soltanto buono. Sarebbe a questo punto odioso e rivoltante pensare che il padre avrebbe voluto la morte di una persona, per di più suo figlio. Sarebbe un Dio alla stregua delle crudeli divinità degli Aztechi o di certe religioni pagane, la religione di Mitra, eccetera. Potrebbe, allora, esattamente la mia fatta. Ecco perché il Dio di Gesù aveva il sangue del Dio degli Aztechi o di altre divinità pagane. Ma non potrebbe averlo fatto per misericordia verso l'umanità peccatrice, facendo pagare al figlio ciò che doveva far pagare a noi, la riparazione. Non potrebbe averlo fatto per questo. Sapete che questa è una delle spiegazioni adottate nel corso dei secoli, ma non credo che possiamo oggi accettarla. Oggi non è più accettabile una convinzione. Sotto il manto della misericordia nasconderebbe la crudeltà esercitata su un innocente, e oggi con tutti i malesseri della nostra società, però questo senso di giustizia c'è poi in tutte le coscienze, si è fatto strada. Non potete, ecco, esercitare crudeltà su un innocente per salvarne degli altri. Altri hanno paragonato la morte di Gesù alla morte di un ostaggio, ecco, padre Colbe in anteprima, il servo sofferente del secondo Isaia, che si offre per la liberazione di numerose prigionie. Nella linea, ripeto, del servo sofferente, del secondo Isaia, padre Colbe in anteprima. Supponiamo per un istante che possa essere così, ma allora, se così potesse essere, faremmo del padre un carnefice iniquo che usa un procedimento condannato persino dai peggiori regolamenti militari. Abbiamo ancora l'eco delle mitragliatrici che falciavano vite innocenti, ostaggi, perché non potevano arrivare. Ecco, per i destinatari, il protagiano. Ah, poco per volta, ecco, forse si spiega la sua morte e la si interpreta teologicamente. Gesù ha poco per volta compreso la fine violenta alla quale andava incontro con il suo ministero, quello che diceva e quello che faceva. Avrebbe avuto in sorte la sorte dei profeti. Sarà l'unico modo che gli rimarrà per non rinnegare quello che aveva detto su Dio e per non rimangiarsi, per non ritrattare tutta la sua condotta. E allora Gesù scelse e accettò di soffrire e di morire per essere fedele al Padre e a se stesso, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Al Getsemani, invece di scappare, come abbiamo detto che era estremamente possibile e facile, Gesù conferma questa sua volontà e sa che è quella del Padre. Ecco, Padre, ciò che tu vuoi, ecco, io sto volendo per voi questa coerenza, questa prova che io dia di amore. amore verso i miei, sì, alla fine, in questo le nostre volontà concordano. E allora io accetto e vado fino a tu. Sia fatta la tua volontà perché è come la mia. Vedete, non dobbiamo mai dire che Gesù è come Dio. Perché se diciamo che Gesù è come Dio, che cosa supponiamo? Di sapere chi è Dio. No, io dico Gesù è come Dio, allora è perché sai come Dio, no? Noi dobbiamo sempre dire Dio è come Gesù, non Gesù è come Dio, ma Dio si è manifestato in Gesù. Padre, che l'amore tuo e mio sia affermato sino alla fine, che non sia posto alcun limite, neppure la sofferenza e la morte che gli verranno imposte. Le sofferenze di Gesù, allora, questa spiegazione mi pare giusta e semplice, il mistero, l'amore di Dio, si intende, le sofferenze di Gesù non sono volontà del Padre, sono volontà e responsabilità del potere religioso, nel nome dell'ortodossia che non ha saputo cogliere in Gesù il vino nuovo della nuova alleanza, significato là dal cambiamento dell'acqua in vino a campo. D'altronde vi ricordate la serenità, non è ancora avvenuta la mia ora per Giovanni, il quarto Vangelo, le nozze di Cana, offerto per amore, alla vita donata, rimanda l'Eucaristia, fate questa in mia memoria, date anche voi la vita, mettete anche voi la vostra vita a servizio con gli altri, messa lì, siate disposti ad amarli fino alla fine. Il Dio che scopriamo ai piedi, ecco, del crocifisso, visto che c'era tutta la lettera sul crocifisso, è il Dio dei Vangeli, colui che non fa soffrire nessuno e che accetta di morire nel Figlio per provarci il suo amore. Vediamo in questa visione della sofferenza, ne abbiamo un sollievo, che ci consente, ecco, il suo amore di affrontare il dolore e la sofferenza. Non perché è bello soffrire, ma quando mai possiamo convincerci e convincere la gente che è bello soffrire per amore di Dio? È sempre brutto. L'amore di Dio è bello, ma il soffrire per quell'amore è brutto. Ecco, ma perché può essere la prova, non da parte di Dio, ma da parte nostra? Perché questo dolore ci arriva per le contingenze, finitezza del creato, della nostra vita. Ecco perché, nonostante tutte queste belle parole, rimane sempre un mistero. Ecco, può essere la prova, però, per noi l'occasione, nella fede e nella speranza, di testimoniare la nostra fedeltà all'amore di Dio, all'amore di Dio. Se concordiamo su questa riflessione, si impone a noi il dovere e anche la difficoltà, il dovere, perché Gesù ci porta su queste piste, ma anche le difficoltà di dare un senso cristiano alla sofferenza, un senso cristiano che eviti, proprio per essere cristiano, di pensare alla sofferenza come ad un bene. Nasce anche la responsabilità di rapportarci alla sofferenza dei malati e degli emarginati in termini forse, e senza forse, un po' diversi da quello che siamo soliti fare. E allora è quello che ci rimane da fare. Abbiamo ancora tempo di andare avanti un po', sì, fino a mezzogiorno, poi discutiamo un po', prendiamo un po'. Allora passiamo a quest'altro futuro. Le nostre abituali concezioni sulla sofferenza e, in base a quello che abbiamo detto, i nuovi comportamenti che dovremmo essere in grado di instaurare per correggere le eventuali devianze che riscontriamo nel nostro modo di comportarci. Tenendo conto di quanto il Vangelo ci ha insegnato nel comportamento di Gesù verso gli ammalati e i sofferenti, e come lui stesso ha affrontato le avversità del suo ministero e la disgrazia della sua passione e morte, come dobbiamo comportarci per vivere da cristiani la sofferenza e la morte, per dar loro un senso evangelicamente corretto? Ecco quello che ci proponiamo di fare velocemente. Cerchiamo di riflettere su quanto solitamente avviene in questi casi al comportamento abituale degli ammalati e di chi sta loro intorno. Vediamo un po' le concezioni abituali e le difficoltà che ne derivano. Le espressioni che si sentono in giro sono abitualmente di questo tenore. Per esempio sentiamo dire così: bisogna che accettiamo ciò che Dio ci manda. Tieni la croce che hai, perché sennò corri il rischio che Dio te ne mandi più pesante ancora. Tu c'hai la tua, ma se guardi da attorno, altri hanno croce mandate da Dio più pesante della tua. Potete sentire un altro pronunciamento di questo tipo: vivo male la mia malattia, io non sono capace di vivere bene la mia malattia, non riesco a rassegnarmi alla volontà di Dio. Oppure sono stato all'ospedale tra la vita e la morte, magari in coma per qualche giorno, per questa volta Dio non mi ha voluto. Allora lo ringrazio che la rimando ad un'altra ora. Sentite dire: è la terza volta che mi opero. Ho l'impressione che Dio si prenda gioco di me. Oppure: perché Dio mi manda questa prova? Ho sempre tentato di fare del bene. Perché proprio a me? L'annuncio funebre di un ragazzino finito sotto la macchina, una macchina che doveva andare in 20 all'ora e invece andava in 200. Se i genitori hanno fede, scrivono rassegnati alla volontà di Dio. Qualche anno fa una Marialia è precipitato in piscina di casa, una piscina fatale. Queste simili espressioni stabiliscono una relazione tra la sofferenza e Dio, una relazione che secondo Gesù non è giusta. Quando penso che sia Dio ad inviarmi una malattia o a permettere una disgrazia, gli ebrei poi non distinguevano. Per me la voglia o cosa la stessa. Ecco, quando penso che sia Dio ad inviarmi una malattia o a permettere una disgrazia, un incidente, faccio in qualche modo Dio stesso causa di questi mali. No, se le parole hanno un significato. Riferisco la sofferenza alla sua volontà. Questo per i più oggi è scandaloso. Un Dio sadico contro l'uomo. Siamo sempre lì ad essere sinceri. Oggi, almeno a parole, siamo pronti a condannare qualsiasi forma di oppressione nel nome stesso della dignità e dei diritti della persona umana. Condanniamo giustamente anche chi infligge sofferenze agli animali, e qui abbiamo un dottore degli animali. Sofferenze agli animali, guasta le piante, i fiori, le erbe. Un miscredente ha scritto: se esistesse un Dio del genere, bisognerebbe punirlo, mandarlo all'inferno, se esistesse un Dio del genere. Spesso, chiedendomi perché Dio vuole che io soffra, chiedendosi